You've got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a Indovina chi viene a cena. Questa sera a cena con noi abbiamo gli autori di un volume che è arrivato da poco nelle librerie italiane e che vi consiglio. Poi cercheremo di definirlo perché non è esattamente una graphic novel, ma non è neanche un romanzo, è sicuramente una storia. Sto parlando de La Crepa per ADD Editore. Abbiamo con noi uno degli autori che è Carlo Spotorno. Grazie per essere con noi, buona serata. Buona serata a voi. L'altro è Guillermo Abril, rispettivamente fotografo e giornalista, che hanno curato e realizzato quest'opera. Carlos, innanzitutto grazie per essere con noi. Lei è un fotografo spagnolo che ha seguito molto le tematiche economiche, sociali e politiche, mentre Guillermo Abril è un giornalista spagnolo, anche lui su molte di queste tematiche. Avete vinto con questo volume il World Press Photo del 2015, complimenti. Grazie, in realtà il World Press Photo del 2015 l'abbiamo vinto con un video che abbiamo fatto, però la tematica e il video praticamente lo stesso soggetto, le stesse immagini quasi. Sì, ha fatto bene a ricordarlo, l'avete vinto per il video su Lampedusa, no? Che è anche diciamo la copertina di questo, della Crepa. Sì, sì, così. Da una nave italiana, una fragata italiana, la Grecale, che nel 2014 insomma noi siamo stati con loro circa una settimana e abbiamo visto un po' come si svolgeva questa operazione, che adesso siamo abituati a vederlo in TV, ma 4 anni fa o 3 anni fa non era così, non era di tutti i giorni, anzi si vedeva pochissimo o non si vedeva, forse anche per questo che hanno deciso che era importante questo video all'epoca. Questo libro come nasce, da cosa nasce, da che esigenza? Allora, la capa redattrice del Paese Semanale, il giornale per il quale noi lavoriamo, ottobre 2013, questo naufragio vicino a Lampedusa con quasi 400 morti, scatta delle allarme, ma non solo in Italia, non solo in Europa, anche da noi a Madrid. Qualcuno ha detto: ma che sta succedendo? Stanno succedendo cose gravissime, bisogna andare a vedere. E così ci hanno mandati Guillermo e me da giornalisti semplicemente a vedere cosa succedeva. Abbiamo scelto 3-4 punti nel sud e abbiamo cominciato a fare questi reportage. Poi, da questi punti poi ne avete scelti anche altri, perché non sono solo punti a sud, anzi siete andati anche molto a nord. Sì, ma questa è stata una scelta dopo. Una volta che abbiamo fatto questa prima storia, che è stata pubblicata in un modo assolutamente tradizionale nel giornale, la rivista della Domenica Spagnola, ci siamo detti: ma poi insomma queste frontiere che altro c'è all'est, al nord, ma che succede in Europa? Che in realtà noi non lo sappiamo, stiamo adesso capendo che succedono delle cose, ma non sappiamo niente di cosa succede all'est e al nord. Ci siamo messi a investigare un po', a cercare cosa c'era, e abbiamo deciso di continuare questo viaggio, questa, direi piuttosto questa serie di viaggi, e così abbiamo messo insieme tutto questo materiale, da Melilla, che si trova in suolo africano, fino al nord della Finlandia, oltre il circolo polare artico, con l'intenzione di avere, ecco, un'idea, un'immagine panoramica di come si trova più o meno l'Unione Europea adesso, che tutti abbiamo l'intuito che si trova male, messa male, ma non capiamo perché né come esattamente. Quindi abbiamo cercato insomma di dare un po' delle immagini e delle parole a una questione complessa, cercato di farla più capibile, per dire in un modo. Io prima faticavo a definire questo libro, perché è una graphic novel, è nel campo della graphic novel, però non è esattamente una graphic novel, è fatta di fotografie, anche se lavorate. Sì. Funziona, il linguaggio è il linguaggio della graphic novel, del fumetto, anche se vogliamo dire, anche se le persone non hanno le bolle con cui parlano, parlano in altro modo, ma insomma il linguaggio è così, è come quello della graphic novel. Invece non sono disegni, sono fotografie. Ovviamente le fotografie trattate in un modo che non sembri un fotoromanzo, perché il fotoromanzo è comunque un genere molto rispettevole, ma che ha con sé delle si porta dietro una storia che non assomiglia per nulla a quello che noi volevamo fare. Quindi abbiamo ritoccato queste immagini in modo che sono più piatte, più grafiche, il nero è molto forte, i colori sono un po' snaturati, e così chi lo legge si rende conto che sono delle foto, ma allo stesso tempo non le percepisce come tali. Ce n'è una in particolare che mi ha colpito moltissimo, a Melilla, dove si vede il golf club di questa enclave spagnola sullo sfondo, con due giocatori che spingono dei carrellini con le mazze da golf. Sotto questo campo, questo prato molto curato, ci sono delle tende e delle persone che stanno in una situazione abbastanza degradata. È una foto paradigmatica di quello che sta accadendo in Europa, dove anche nel Mediterraneo, anche in Italia, a un passo dalle spiagge dove si fanno le villeggiature, noi stessi andiamo a prendere il sole, o anche in Spagna arrivano questi gommoni. È il bello e il brutto, infatti, ma diciamo, dal punto di vista visivo, della percezione, è un modo molto chiaro, molto semplice di mostrare appunto questa disuguaglianza, questa profonda differenza, no, tra chi è nato in un posto, chi è nato in un altro, chi ha avuto più fortuna, chi ha avuto meno fortuna. In un modo molto chiaro si vede così. Oddio, non voglio dire che questa sia una cosa esclusiva di Melilla, neanche esclusiva di oggi. Diciamo che, non lo so, è sempre stato così, purtroppo. C'è sempre stato il castello del signore e il poveraccio che viveva sotto. La cosa è che adesso abbiamo i mezzi, la capacità, insomma, di sfamare tutti, invece ancora continua a succedere questa cosa. Ecco. Qual è stata la foto più difficile? Le foto che ho fatto in Marocco, oltre la frontiera marocchina, nel monte Gurugu, lì dove vivono i subsahariani in mezzo al bosco, senza niente, senza tende praticamente, vivono sotto le pezze di plastica, mangiano quello che trovano nella spazzatura, non hanno l'acqua, non hanno le medicine, nessuno si prende cura di loro, insomma stanno veramente in una situazione disperata. È anche un posto difficile per andare per un giornalista, bisogna non farsi beccare dalla polizia segreta, questo è così. Siete arrivati? Fingendovi qualcun altro, no? Io penso, voglio pensare, con una sorta di complicità anche alla frontiera, cioè due spagnoli arrivano in Marocco, che siete, che fate qua? No, ma siamo professori di letteratura, di arti visive, va bene, e venite a fare niente, un po' di turismo. Dico, io già penso che loro già capiscono che più o meno stiamo cercando qualche cosa, però ci sono stato un paio di volte, una volta mi sono fatto fermare, non è il gran pericolo per la vita, però sì, ti fanno molte domande, ti fanno stare 2-3 ore a spiegare che chi sei e che fai, perché siamo andati in Marocco a fare questa storia senza il permesso, perché l'abbiamo fatto senza il permesso. È vero che non ci abbiamo neanche provato, ma l'esperienza di altri colleghi, altri fotografi, altri giornalisti che conosciamo ci hanno detto: guarda, lascia perdere, la storia dei migranti in Marocco non te la fanno fare, quindi se la vuoi fare la fai un po' di nascosto. Ci fermiamo un attimo perché abbiamo una piccola pausa, torniamo con lei tra pochissimo. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presento. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Torniamo in onda con Indovina chi viene a cena. Stiamo parlando questa sera di un volume di fotogiornalismo, una graphic novel, La Crepa, di Guglielmo Abril e Carlos Spottorno, giornalista e fotografo, che ci accompagnano in questo volume attraverso tutta l'Europa e non solo. Carlos, che è in linea con noi, ci stava raccontando del Marocco, della difficoltà anche di andare a riprendere comprendere, magari che appunto con la complicità sottointesa delle guardie, delle persone che vi hanno lasciato alla fine fingervi professori, certe zone, certe enclavi, certe situazioni. Immagino un po' di sì, perché se veramente non vogliono che passi nessuno, nessuno passa, questo è anche vero. Comunque non è stato l'unico posto in cui abbiamo dovuto un po' sfilarci, anche in Europa, anche in Grecia, anche in Spagna. Un po' uno, mi sembra che il copione fosse sempre quello, la messa in scena iniziale che vi facevano vedere e poi lo sfilarsi. Noi cerchiamo sempre di lavorare con le autorità, con i permessi, lo facciamo diciamo al 99%, ma c'è sempre qualche volta dove noi vediamo che comunque veramente quello che vogliamo fare non è un pericolo per nessuno, non risponde a nulla di veramente pericoloso né per la sicurezza di un paese, né per la nostra sicurezza, né per la sicurezza di nessun altro. A volte insomma si dice guardiamo un po' più in là, Un'altra rotta che avete seguito è quella, la famosa rotta dei Balcani. Qual è stata la sensazione lì dell'Europa? C'era l'Europa lì? C'era l'Europa e allo stesso tempo non c'era, io direi che c'era piuttosto il potere locale, le autorità locali, perché lì all'Ungheria non direi che sia un ordine che è venuta da Bruxelles a dire bloccate tutte le frontiere, direi che è stata piuttosto un'idea ungherese, certo con la complicità europea o almeno con l'accettazione, non è che li hanno obbligati a fare diverso, cioè gli hanno detto non si fa così, però dopo che si dice non c'è un modo di obbligare. Comunque cosa si vede? Si vede che l'Europa è impaurita un po' sotto questa ossessione dell'invasione, no? Anche perché queste immagini magari di centinaia di persone, anche migliaia di persone a volte che camminavano nell'immaginario della gente qua in Europa, si immaginava questa folla di milioni di persone che arrivavano morti di fame, si è scatenata un po' questa psicosi dell'invasione. E questo si è visto, penso, ecco appunto come si sono chiuse le frontiere in un modo a volte anche violento, in un modo comunque primitivo, insomma, a fare le barriere fisiche che poi non si possono veramente chiudere fino ad ogni angolo, è impossibile. Il dato di fatto è che in questi anni la migrazione costringe un po' l'Europa a definirsi, a ridefinirsi oppure a distruggersi, e mi pare di capire un filo conduttore che avete tenuto. Sì. Sì, perché, ma non solo per il fatto di, cioè non solo per quel che riguarda la risposta alla situazione attuale o quella che è cominciata più o meno nel 15 o un po' prima, cioè non solo nella risposta tipo per quel che riguarda aprire le frontiere e far entrare tutti o non far entrare nessuno, non è una definizione così semplice, perché se fosse così semplice, in realtà la risposta ce l'abbiamo già, le frontiere sono chiuse, quindi questa è la risposta per adesso. Ora bisogna chiedersi, e io immagino che c'è gente anche a livello politico, anche con potere con capacità di strategia, che stanno cercando appunto di definire l'Europa, spero, di definire l'Europa nel futuro, cioè nel futuro, il rapporto con il resto del mondo, il rapporto con i paesi di origine, che se ne dice sempre, ma che vuol dire i paesi, che facciamo con i paesi di origine? Uno pensa che butta i soldi dall'aereo, ma non è così che funziona, lo sappiamo anche questo, che non basta. Sarebbe piuttosto un cambiamento proprio radicale per quel che riguarda l'economia un po' rapace, un po' abbastanza rapace, abbastanza coloniale, che succede, no? Noi paesi europei, europei e americani, non solo, insomma andiamo nel chiamato terzo mondo, ci becchiamo tutto, prendiamo tutto, paghiamo niente, e quel niente che paghiamo lo paghiamo a quattro dittatori che mettono tutto in Svizzera. Ho semplificato molto la storia, però è un po' così. È l'economia coloniale che non può più funzionare. Quindi vediamo se l'Europa si rende conto di questa cosa. Dico che forse c'è qualcuno a pensarci, perché ricordo averne parlato anche con militari che ci dicevano: guardate, l'Europa reagirà solo in difesa propria quando capirà che questa situazione diventa un pericolo. Allora ci sarà una reazione un po' più pianificata, una strategia a lungo termine, se no adesso semplicemente chiudiamo qua, chiudiamo là, ma non risolviamo niente. C'è una frontiera, un avamposto se non altro, che mi sarei aspettata di trovare nel vostro libro e non c'è invece, ed è Calais. Come mai questa scelta? Calais non è una scelta semplice. Quando uno fa un progetto deve definire uno spazio, se no non finisce mai. E allora abbiamo deciso che sarebbe stata la frontiera esterna dell'Unione Europea. Calais per adesso non è una frontiera esterna. Un'altra cosa, anche penso che la giungla di Calais era un soggetto talmente grande in sé, avremmo dovuto farne, non lo so, un libro a parte. Ma infatti c'è un grandissimo libro quest'anno che ha vinto anche qualche premio, si chiama Ville de Calais, un libro fotografico e anche insomma meraviglioso, fatto tutto su Calais, perché infatti lì c'era materiale per farne un libro. Mi ha incuriosito molto poi questa vostra virata verso nord, quindi l'Ucraina e poi la Finlandia, la Russia soprattutto sullo sfondo. Sì, perché noi non è che cercavamo i migranti, noi cercavamo le frontiere. E quindi noi cercavamo qualunque cosa ci trovassimo alle frontiere. Poi è successo che abbiamo trovato i migranti un po' dappertutto, però c'è uno spazio particolare, i paesi baltici, no? Dove è una situazione che non esiste per loro. Invece il loro problema, insomma la loro preoccupazione quotidiana sono i russi, che è una situazione ben diversa, cioè loro hanno una sorta di paura di un'invasione militare da un potere più potente di loro, anche più potente forse dell'Unione Europea. Invece la situazione dei migranti è un'altra, non la paragonerei, non sarebbe un'invasione e certamente non da un potere più forte. Diciamo che sono storie diverse, ma non voglio mettermi neanche a paragonarle perché proprio non è il caso. Dico che abbiamo semplicemente seguito la frontiera. Infatti quando siamo arrivati in Finlandia noi credevamo di trovare un paese preoccupato col vicino russo, che è la loro preoccupazione storica da sempre. Invece è successo che in quel momento tutti quelli che erano passati per i Balcani, sono passati per la Germania e la Svezia, molti sono arrivati in Finlandia, 35.000 in pochissimo tempo, in questo paese grande ma di solo 5 milioni di abitanti. Che ha vissuto una crescita esponenziale degli arrivi. 800% in un anno. In tutto un tratto in Finlandia hanno smesso di pensare ai russi per un momento e si sono messi a pensare a quest'altra cosa, perché a loro veramente non se l'aspettavano questa cosa, ma per loro è una cosa così lontana. Veniva dal sud, che si sarebbe comunque fermata in Germania, mai nessuno arriva in Finlandia. La Finlandia è stata isolata geograficamente dal resto del mondo per sempre, perché è un posto veramente difficile. E invece si sono trovati, per dire, a dovere, anche a volere, perché lo facevano volentieri, a partecipare del gioco europeo, della strategia o della reazione immediata europea, anzi l'hanno fatto molto meglio degli spagnoli per esempio. Gli spagnoli non abbiamo ricevuto quasi i migranti, o almeno non di quelli che sono arrivati nel 2015 e poi abbiamo promesso di prenderne, non lo so, 20.000, abbiamo presi 2.000, insomma niente. Queste recinzioni, questi muri che sono stati eretti negli ultimi anni hanno scandalizzato l'Europa. Invece il muro di Melilla esiste lì. Esiste da tantissimo tempo, è, come raccontate benissimo voi, una fortificazione anche imponente. Questo non ha mai scandalizzato l'Europa. Non ha mai scandalizzato l'Europa, innanzitutto penso perché l'Europa non ha neanche mai sentito parlare di questo posto, la più parte della gente non ne ha mai sentito parlare, ma questa è una delle cose che abbiamo scoperto, gli europei non ci conosciamo tanto, quanti europei del sud conoscono Kaliningrado? Pochi, pochi sanno cos'è e dov'è e che significa, cioè sono delle frontiere che sono comunque disputate, complicate, ma l'Europa è piena di posti così. È piena anche di crepe, quelle che voi avete fotografato dall'alto, le crepe del Baltico, no? E le avete anche nel testo paragonate alle crepe dell'Europa. È questo il significato del titolo? Sì, il significato del titolo è proprio questo, no? Questa, cercavamo una metafora semplice per quel che per quel che è una storia complessa, ma insomma la crepa è sempre, quando in una struttura, un muro, si vede una crepa, si vede l'inizio di qualcosa che potrebbe creare altre crepe e che potrebbe collassare. Infatti l'Europa nel dopoguerra ha raggiunto una sorta di equilibrio che alcuni credono sia permanente e solido, in realtà non lo è. Non lo è, lo stiamo vedendo anche in questi giorni in modo molto chiaro anche in Catalogna, ma adesso in Corsica gli indipendentisti radicali hanno preso il 45% nelle ultime elezioni. Voglio dire, le frontiere europee che le abbiamo accettate, ognuno lasciandoci qualcosa, perché penso che le frontiere italiane al nord, a Trieste, non sono neanche tanto chiare, cioè tutto è stato accettato dopo la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, adesso si riaprono delle questioni che sembravano ferme per sempre e invece cominciano a riaprirsi. Ecco, queste sono le crepe. Che l'Europa, ecco, non essendo così solida come immaginavamo, appena c'è una crepa, una cosa che succede, una cosina che succede alla frontiera qua o là, altre piccole crepe cominciano a crescere, ma una volta che ce ne sono troppe, questo effettivamente potrebbe crollare. Questa è più o meno la situazione che io penso. Grazie a Carlos Spottorno per essere stato con noi questa sera, per averci raccontato qualcosa di questo volume che trovate in libreria, La Crepa, per ADD Editore. Grazie Spottorno. Grazie tante, buonasera. È tutto per questa puntata, io vi do appuntamento a sabato prossimo sempre sulle frequenze di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Se volete scaricare la puntata dal sito internet di Radio 24, vi ricordo di andare sulla pagina del programma Indovina chi viene a cena. Se volete scriverci per commenti, suggerimenti o anche critiche, vfurlanetto@radio24.it. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, grazie per essere stati con noi. Vi rimando alla prossima cena sabato prossimo alle 21. Ciao, buona serata. You've got to give a little. That's the glory of love.